giorno, il mese, l'anno, la stagione, il tempo, l'ora, il punto, il bel paese, loco, io fui giunto da due begli occhi che legato m'hanno. Et benedetto il primo dolce affanno, chi ebbia da sé con amor congiunto. Et l'arco et le sette ondi fui punto, et le piaghe che infine al cor mi vanno. Benedette le voci tante ch'io, chiamando il nome de mia donna sparte, e i sospiri et le lacrime il desio. Et benedette sian tutte le carte, ovvio fama, l'acquisto e il pensier mio, che sol di lei si caltra non va parte. Sia il giorno, il mese, l'anno, et la stagione.